si volga, si, si, si spante, e tutto sia. Tutto Stiffenio la mia figlia la mia colpevol figlia e l'anima l'anima la figlia d'un soldato in questo tempo uno di noi vorrà. Ai fratei che al tempio sarò fra pochi istanti, lasciatemi, egli viene. Cercare mi feste, sì, prevedo qua i rimbrotti, non detto, non m'opporrò a vendetta se bravate, solo un'inchiesta. Talina che qui l'attendo e che cercate saper sia mai più cara colpevol libertate, ma che dire di donna che per veste la tutto udrete. Inevitabil fu questo colloquio prima di separarci. Partite? Sì, questa sera. Come? Udite. Come? l'onda incancellabile coprissi al fin d'oblio che era segnato a togliere potessi il disonor a chi van quanto Mi aspetta! sì, vogliamo a meglio, fuggiam le mie porte, delitto sole morte, il guano di scampò, ai sentori esempio rimanga questo vento, Dio l'ha maledetto, l'ha maledetto, l'ha maledetto. 的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。